America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. Sono alla National Gallery in questo momento, dove c'è stata un'anteprima della mostra del Canaletto, Canaletto e i suoi rivali, una mostra sponsorizzata dalla Fondazione Bracco. Ma c'è un côté politico per questa mia visita, oltre che un côté culturale ovviamente. Il côté politico è che Barack Obama ha tenuto ieri la sua prima conferenza stampa con il nuovo portavoce Jay Carney. Robert Gibbs, come sapete, se n'è andato. Il presidente ha dato due messaggi ieri, il primo sul bilancio. Di fatto ha ammesso che per ora non ci sono sforzi strutturali per ridurre il disavanzo, ma ha detto che stiamo cominciando a fare cose importanti, a tagliare la spesa. Alcuni aspetti della spesa corrente, le spese strutturali riguardano ovviamente le pensioni. Obama ha dato anche in questa conferenza stampa un messaggio alla piazza iraniana. Quello che è stato conquistato dalla piazza egiziana, ha detto in sostanza il presidente, è un diritto per tutti, anche per il popolo iraniano. Dunque un affondo, la conferma dell'attivismo americano per ridisegnare la mappa della democrazia in Medio Oriente. Obama ieri ha anche consegnato alla Casa Bianca le Medals of Freedom, la più alta onorificenza civile americana, 15 premiati, il meglio di ciò che siamo e di ciò che aspiriamo ad essere, ha detto Barack Obama, definendo i premiati, che provengono, devo dire, da ogni disciplina. Tra i decorati, per esempio, vi è la poetessa Maya Angelou, il violoncellista Yo-Yo Ma, ma anche il finanziere Warren Buffett e soprattutto dall'Europa la cancelliera tedesca Angela Merkel. Torniamo alla mostra, grandi immagini di Venezia, grande celebrazione dell'Italia. Vi ho detto nella prima puntata di quest'anno che avrei voluto occuparmi di eventi americani che ruotano attorno alla ricorrenza del 150° anniversario dell'unità del nostro paese. Questa mostra è parte di questi eventi, forse il più importante. Dunque chiedo all'ambasciatore d'Italia a Washington, Giulio Terzi di Sant'Agata, qui con me ai microfoni di America 24, quanti sono, come sono, quali sono gli eventi in corso. Ci sono 150 eventi nel grande programma di manifestazioni culturali lanciato per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. È un programma che il Capo dello Stato ha posto sotto il suo alto patronato quando è venuto negli Stati Uniti lo scorso maggio per incontrare il Presidente Obama. Questi eventi vanno da concerti ad approfondimenti scientifici alla storia delle relazioni fra i grandi del pensiero politico in Italia e negli Stati Uniti. Cito per tutti Filangieri e Beniamino Franklin, una corrispondenza per buona parte inedita che abbiamo potuto fare emergere e pubblicare in questa occasione. Fra due giorni ci sarà la presentazione da parte del presidente professor Giuliano Amato all'Istituto di Cultura di New York delle Salvemini Lectures, collegate appunto al 150° anniversario. Ma un evento di grandissima importanza, vorrei dire veramente tra le vette di tutto il programma, è questa mostra di Canaletto e i suoi rivali, che è stata resa possibile dalla collaborazione fra la Fondazione Bracco e la National Gallery of Art qui a Washington. È una dimostrazione della vitalità di Venezia. Venezia in questa mostra ha una sua dimensione che va addirittura al di là di quella che è la storia dell'arte e il rapporto critico fra Canaletto, Carlevaris, Marieschi, Bellotto, perché fa vedere come attorno a queste immagini ci sia la società di un mondo relativamente piccolo come dimensione, ma di grandissima proiezione nel Mediterraneo e nella storia, con oltre un millennio di rapporti e di dialogo con l'Oriente, che è fotografato e ripreso in queste immagini che vengono portate alla National Gallery. Quindi in questo senso la mostra è particolarmente evocativa del grande ruolo della cultura italiana, non solo nel passato, ma soprattutto quello che ci attendiamo debba essere nel futuro. Abbiamo ai microfoni di America 24 anche Diana Bracco. Dottoressa, la vostra fondazione ha fatto una cosa importante, insomma questa mostra è davvero spettacolare. Devo dire, mi sembra inusuale per una fondazione italiana. In realtà fondazioni in Italia ce ne sono più di quello che non si immagini, sono più di 100 le fondazioni d'impresa. L'errore è che si concentrano su progetti piccoli, invece io credo che si debba adesso cercare di mettere a fattor comune la forza di queste fondazioni. Questo sarà una bella gamba, diciamo, per la cultura, se si vuole. Come nasce, dottoressa, una mostra così? È la prima volta che la vede così allestita, devo dire, deve essere piuttosto emozionante. Sì, è la prima volta che la vedo, è molto emozionante. L'avevo discussa nel 2006 quando fummo qui con la mostra Giorgione Tiziano, perché allora c'era il progetto di questa. E allora ci aveva fatto vedere David Brown questi spazi e questa ala così luminosa, dicendo qui metteremmo il canaletto eccetera eccetera, e quindi si vedeva che poteva diventare una veramente una festa di luce, di colori e di particolari come quella che è uscita. Ecco, Expo 2015, ci sono delle manifestazioni di interesse dagli Stati Uniti? Ha già trovato qualche manifestazione di interesse per venire all'Expo, per contribuire, qualche istituto tecnologico, per esempio, non so, Google o qualche grande azienda americana? L'amministratore delegato sta contattando grosse multinazionali proprio per quello che lei diceva, cioè di cercare di trovare delle sponsorship rilevanti, e adesso vediamo, diciamo, siamo vicini, ma insomma abbiamo sempre 4 anni e mezzo. Ecco, il nuovo amministratore delegato si è insediato da qualche mese, c'è un primo bilancio da parte sua? Mi sembra che lui lavori in maniera determinata, molto fattiva, ha una enorme capacità di lavoro, certamente la complessità dell'opera, lui stesso l'ha detto anche ultimamente, non è facilmente immaginabile, perché bisogna costruire i contenuti per essere attrattivi nel percorso di avvicinamento e in quel periodo, ma bisogna anche fare tutta la parte, diciamo, materiale, quindi è una complessità di argomenti che io non ho mai visto tutto in una volta, adesso vediamo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Esperanza Spalding, Fall In. They say if you die in a dream, you die in real New York. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.